24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. La bellezza va cercata, va difesa, tutelata. No. Allora, no, accendete le luci per cortesia, no, mi dispiace. Questa volta non ci sono, se fermi tutti a casa tocca a me. Vabbè. Stasera mi butto, era a Sanremo, stasera mi butto, cioè non è che era... No, non è che voglio essere irriverente verso, ma... A un certo punto il Fatto Quotidiano l'ha scritto, sembrava che tornasse stasera mi butto al Festival di Sanremo, perché l'avete visti ieri quei due precari che da 16 mesi non prendono lo stipendio? È dramma vero questo. E avevano però due biglietti da 180 euro in tasca, dubbio vero, anche questo bisogna dire. Sono saliti lì su, sul palco dell'Ariston con questi due bigliettoni. E il Fatto va da Beppe Grillo, tra l'altro, a chiedere, ma non, io non c'entro, dice, che in genere, vabbè, si dice gallina che canta, fa, no, ma no, non c'entra niente, vabbè, questo inizio è un pochino controverso, un pochino d'altronde Sanremo, va bene, sono le 6:32 minuti, buongiorno, questo è 24 mattino, saluto Miriam Lucchetti in redazione, il nostro alpino Peter Bescapè in regia. E voglio salutare subito la nostra Paola Saluzzi, glielo facciamo sentire stasera mi butto, te la ricordi stasera mi butto per un attimo? Assolutamente, sì. Ed è una canzone fantastica, certo applicata perché ti viene da pensare ad una situazione tanto drammatica, che poi drammatica per i risvolti purtroppo dei 16 mesi sì, senza di mancato pagamento, e questo è cinica, è vero, lo ammetto, è cinica, molto cinica, sì, ma è anche quello che ti viene in mente, insomma, cerchiamo di non colpevolizzarci, ma è anche un po' sospetta questa ribalta di Sanremo, vediamo. Dici? L'importante è che si risolvano i problemi di queste sì, persone. Questo sì, aggiungo, questo sì. Quello conta, perché poi sai, sono funambolismi della vita quotidiana. Eccola. Al conduttore di funamboli, sono funambolismi della vita pensa se mi capita, io vado nel panico, invece Fabio Fazio. Vabbè, apriamo non subito il Parlamento, perché questa te la voglio subito chiedere, appunto, tu che hai fatto tante dirette anche importanti. Volentieri a tutti quanti. Saluto ovviamente Paola Saluzzi, come detto, Sky TG24 pomeriggio oggi alle 15 in pole position, e saluto anche Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Buongiorno caro Luca. Buongiorno. Sono stato troppo... Sanremo, Sei a Sanremo? Sì. È a Sanremo, attenzione, io non lo sapevo, vedevo che ieri twittava come un folle, perché attenzione, Luca Dini è sbarcato su Twitter, almeno Paola Saluzzi, questo possiamo dirlo come la notizia del giorno? Chiocciola, io sono Luca Dini. Ragazzi, no, attenzione, io sono oppure sono Luca Dini? No, sono Luca Dini. Sono senza l'io, sono Luca Dini, se no non lo trovate. Sono io Luca non Dini. Gli serve, ma basta che facciate Dini, arriva immediatamente il nostro super direttore. Poi vanno da Lamberto Dini, dopo non lo... Sono Luca Dini. Attenzione allora, Luca Dini era a Sanremo, è a Sanremo. Allora voglio sapere, intanto, Paola Saluzzi, tu come avresti gestito, tu che hai fatto tante dirette importanti, serate in prima serata anche sulla Rai, in diretta, che succede, che ti passa nella testa e che è passato nella testa a Fazio in quel momento? Come ha agito Fazio, insomma, cioè ti metti calmissimo, iper tranquillo, perché sai che in ogni caso devi dare spazio e devi mettere in cornice quello che sta accadendo, devi instaurare un rapporto diretto con le persone che in quel momento vogliono avere parola, e di conseguenza il pubblico viene con te, ti segue, cioè non devi avere una preoccupazione. Ma perché all'inizio, da casa. All'inizio è stato un po', poi magari lo sentirete, è stato un po' infastidito, alquanto infastidito, gli ha detto qua state rovinando il lavoro di migliaia di persone, poi si è reso conto che queste persone stavano facendo un po' sul serio, e al che forse, non so se hai avuto, caro Luca, tu eri anche lì all'Ariston proprio, immagino, hai avuto questa... No, non ero all'Ariston, ero appena uscito. Ecco là. Ce l'ho prima quando c'era Grillo. Ah, e beh, certo. E, insomma, la sensazione è che sono stato troppo cinico, questa sera mi butto. No, ho capito che tu hai dei dubbi, no. Legittimi. No, ho dei dubbi, li ho letti sui giornali, per carità. Ma io credo che all'inizio era difficile capire cosa stava succedendo, poi devo dire che ha reagito, cioè, mi ha ricordato il miglior Baudo, è stato capace, devo dire. Eh beh, certo, perché anche Baudo ha fatto, c'era stata una... Non è facile, non è facile. Il sangue anche. No, non è facile per niente, anche perché, voglio dire, è l'inizio, la prima serata di Sanremo, parti e Paola ti succede subito una roba del genere, dici no, cosa diciamo sono? Che se accetti di fare Sanremo è una responsabilità che ti assumi, quindi questo non ti rende, come dire, non cammini sull'acqua per forza di cose. Probabilmente l'essere infastidito nei primi istanti ha ricordato quello che accadde un anno fa quando Crozza venne impedito, esatto, nei momenti iniziali del suo ingresso, ed era un altro tipo di polemica quello, cioè c'erano delle urla che provenivano, sì, erano due spettatori, due forse anche politici, ecco, dagli spettatori, sì. No, quindi accade tutto in diretta e devi saperlo fare. Io concordo con il direttore, ma sono un po' più cinica. Chi fa questo lavoro deve saperlo fare, quindi non vale neanche il dire che è bravo, e certo che è stato bravo, ma devi saperlo fare. È chiaro, a un certo punto, ripeto, dopo, prima essere infastidito dicendo state dove, poi dopo invece ha capito che la situazione era davvero difficile, quindi ha detto Fabio Fazio così, e l'avrete visto forse ieri in TV. Ma se fate così non serve a niente. No, aspetti, leggiamo la lettera. Venga giù. Ma venga a portarmela. Lanci la lettera. Datemi la lettera. Lei però vada su. Lei vada su. Lei stia tranquillo. Insomma, cos'è iniziato Sanremo, caro Lucadini? No? È iniziato in maniera davvero... No, era iniziato fuori in realtà. Era iniziato fuori con Beppe Grillo, certo, con l'arrivo di Beppe. Ma perché? Sanremo è la ribalta nazionale, no? Tutti, ogni anno c'è sempre qualcosa. Stavolta Beppe Grillo l'ha utilizzata, no? E tu eri fuori, cioè che hai visto Beppe Grillo, che ha fatto? Come no, sì, ho sentito un po' il comizio, diciamo. E come ti è sembrato? In forma? Lui sì, devo dire, molto onestamente, c'era molta meno gente di quella che mi aspettassi. Sì? Vabbè, perché non si sapeva se arrivasse o meno, no? Era annunciato poi dopo. Ma no, l'aveva detto da 2 giorni. L'aveva detto da 2 giorni. Insomma, attenzione, perché Lucadini fa subito adombrare il sospetto che cara Paola Saluzzi, Beppe Grillo sta perdendo consensi. Lucadini ha detto anche pic indoor, no. Però no, Didi. Non è quella ribalta lì. Secondo me la gente è un po' stanca di queste manifestazioni usate per altro. Sì, la gente vuole, cioè, legittimamente rilassarsi, ascoltare le canzoni e passare una serata piacevole. Dice, almeno per 5 giorni non stressatevi. No. E però Paola, insomma, è andato lì, la RAI, eccetera, ha detto le cose contro la RAI. Qui adesso magari le mandiamo anche noi, tanto noi possiamo. Anche tu oggi le puoi fare su Sky TG24. Tanto no, chi se ne frega. No. Noi oggi abbiamo. E puoi farlo. Abbiamo uno speciale verso il governo Renzi che sta continuando da giorni. Credo che non ce lo occuperemo. Non ve ne occuperete. Vabbè, ma ce l'abbiamo. Io ho trovato splendido. Gualazzi. e Gualazzi, la mitica, meravigliosa, e che ti vedo a fare Raffaella. Vabbè, posso io alzo le mani perché stavo dormendo. Ma ti alzi alle 5 della mattina e ti permetti di dormire? Ma guarda, Milan, che dovevo fare? Peccato Milan, perché ti sei perso le due canzoni che non, cioè, le risentirai, ma non sul palco. Le canzoni scartate di Gualazzi e Giandrè erano le canzoni più belle della serata. Più belle, vabbè, insomma. E quindi anche Sanremo. Scartate. Sanremo li ha. Vabbè, ecco subito la gente addirittura che mi scrive: i biglietti li ha pagati Fazio, era tutto preparato. Tutto una farsa. No. Vabbè, siamo nella patria dei complottari. Io non pensavo mica a questo quando ho detto i biglietti 180 euro, addirittura tutto organizzato da Fazio. Dai, su, siamo seri, cari ascoltatori. Allora, però, vogliamo sentire Beppe Grillo? No, ce l'abbiamo un audio di Grillo ieri davanti a Sanremo. Sentite. C'è già quasi una denuncia, perché se entro dentro, mi permetto di parlare, entro dentro come un comune cittadino, ho comprato due biglietti, sono venuto con mio figlio, però mi hanno già detto che se entro dentro e mi permetto solo di dire una parola, ve l'ho denunciato per interruzione di pubblico servizio. Allora, vabbè, insomma, questo era già interruzione di pubblico servizio. Ma poi, così voglio introdurre la questione politica, ha parlato anche di politica. Verdini è un massone, Renzi un cartone inanimato, ecco il solito Grillo, sentite. Noi abbiamo fatto una legge elettorale fatta da un massone, Verdini. Andate su Wikipedia e cliccate Verdini, andate a vedere chi è questo di Firenze. È il vuoto assoluto, è un cartone animato, inanimato, in mano a De Benedetti. C'è De Benedetti dietro, molti basta in morci da De Benedetti. E De Benedetti e Berlusconi che si stanno dividendo e massacrando sto paese. E vabbè, insomma, i poteri forti, caro Luca. Pensa che oggi Beppe Grillo si incontrerà con Renzi. L'arma del duello pare la scelga Renzi, ma questo non... Ha dimenticato il gruppo Bilderberg. Il gruppo Bilderberg, quello c'è sempre. Quello è dietro ancora. Cara Paola Saluzzi, veniamo appunto alla questione politica, perché poi... Ma come si riuscirà a formare un governo? Io poi ho una cosa da dire, letture da suggerire. Su che? Vabbè. La situazione governo, noi non possiamo fare altro, non soltanto noi, non parlo di lavoro, noi cittadini, di monitorarla, questo sì, con attenzione, per quella cura che deve essere data a tutto ciò che è nuovo, anche se siamo contrari, non perdere un istante di attenzione rispetto alle parole, alle cose, alle intenzioni che si stanno proponendo e dicendo. Parlo delle parole ovviamente, in questi giorni, in queste ore, per capire che cosa accadrà. Non perché si debba dare fiducia a tutti i costi, ma perché qualcosa di nuovo sta accadendo. Vediamo di capirla, scandagliarla e poi criticarla. Quindi, insomma, fiducia, tu dici fiducia, ma qualcosa sta nascendo. Un po' fatica, un po' fatica, devo dire, almeno ma ancora posso oggi. Posso dire una cosa, nel mio sempre disperato ottimismo. Sì. Ma stavolta cerchiamo di essere realisti. È meglio che ci siano delle difficoltà adesso. Non dico che dopo sarà una discesa in sentino. Sì, tu diffidi di chi dice fa tutto facile, no? Va tutto bene, dall'inizio non va bene. Non va bene, però certo fa un po' effetto, caro Luca, ieri mentre il centro era Sanremo, c'era Roma, no? Con Renzi che arriva alla Camera e dice dove devo andare, non sono mai stato alla Camera, no? Fatemi vedere dov'è il Parlamento, poi deve incontrare quelli dell'SVP. Zeller, e gli dice vorrei tanto sciare sulle vostre montagne, e quello gli dice perché non è venuto mai qui dalle nostre montagne, nostre parti, molto bello. Poi incontra dei parlamenti. Ti è piaciuto Zeller, è il mio preferito. Insomma, ce la farà Renzi questo? Già siamo a chiedersi se ce la farà a mettere in piedi una squadra di governo. Dice Paola Saluzzi, meglio avere le difficoltà adesso e poi cercare di lanciarsi. Ce la farà, caro Luca? Ma sai che cos'è? A me stupisce quando le cose andavano velocissime, tutti dicono ma come si fa a fare una cosa così in 2 secondi, tutto ribaltato, non doveva andare così. Poi bravo. Quando rallenta un pochino, però ha le difficoltà. Cioè, ma bravo Luca, bravo direttore. Che cosa vogliamo esattamente? Vogliamo che le cose avvengano, ma che poi non avvengano. Sì. Intanto questo alimenta il chiacchiericcio della politica, anche oggi 5, 6, 7 pagine sulle totonomine, i totonomi, i totoministri. Una cosa l'ho capita e l'Amazzonia, la carta costa. E soprattutto una cosa che ho capito, siamo appesi e un pochino mi inquieta ad Alfano. Cara Paola, io l'ho capita così, siamo tutti un po' appesi. Anche noi, è la politica, signori. Non so come dire, questo l'ho imparato nel corso di questi anni. Sentite con che charme Paola Saluzzi, con che charme, con che educazione Paola Saluzzi, perché secondo me voleva dire qualcos'altro. È la politica, no. Signori. No. Mi mette in bocca cose che non ho detto. Ecco, intendo dire, è la politica. La cosa che più mi fa specie è: basta, giovani, ci voleva, quella sarebbe comunque la persona giusta, è troppo giovane, parla troppo, scherza troppo, chiede dov'è il Parlamento, chiede dov'è la stanza, è inesperto, è troppo credente, è troppo scout, è troppo pettinato, e basta. E lasciamo lavorare. Alfano è il punto Dolens, e andiamo a lavorare sul punto Dolens, cioè fuori c'è un paese... Ma tu caro Luca, non la faresti sottosegretaria una così? Cioè, già, ma voglio dire, ma la sentite parlare? È una che risolve i problemi, dice Alfano, vieni qua, discutiamo. Alfano, anche su. Anche viceministro, abbiamo qualcosa. Dai, che cosa c'è? Mettiamoci al tavolo. No? Grazie, direttore. Anche Ministero del buon senso. Vabbè, adesso t'abbiamo fatto sottosegretaria. Vedi come il potere ti piace subito. T'abbiamo fatto sottosegretaria 20 secondi fa. Già vuoi fare il ministro, anche tu. E qua bisogna scalare, bisogna crescere. Sì, ma io ho sempre una cosa da leggere. Va bene, ce la suggerisci tra poco. Dopo il traffico, rientriamo con Paola Saluzzi e Luca Dini. Da Sanremo, Luca Dini, da Sanremo. 24 mattino. Buongiorno Milan, io guardi sono 20 anni che sento Tonino Di Pietro urlare come se fosse al mercato del pesce, non ha mai cavato un ragno dal buco, ha ringraziato Bettino Craxi di essere vissuto, ma perché se non fosse vissuto Bettino Craxi, lui oggi al posto di avere 50 appartamenti sarebbe ancora in qualche procura della Repubblica di provincia a decidere, a urlare come sa fare lui su prostituzione e droga. Ma l'hai visto quanto è brutto, mamma mia ragazzi. E poi ha il coraggio dell'imbecille all'altri. Lui da quanto è brutto mi fa scappare il cane sotto il letto, abbaia come un matto alla lupina. E la minifosina, guarda, è una cosa incredibile, viene di corsa, mi abbraccia e dice nonno, aiuto, aiuto, c'è l'uomo cattivo. Dai Renzi, vai, non farti fermare da niente e da nessuno. Vai e fai quello che devi fare. 1, 2, 3, buongiorno signor Mira. In Africa e nei paesi arabi questo si chiama golpe. In Italia è staffetta. Caro Renzi, mi hai ingannato anche te, da Zeng il senegaliano. Il mio pensiero non lo invio per posta, poiché sai bene che la carta costa. Affido quindi a te, caro Sandrino, la voglia pazza di ogni cittadino, paziente, onesto e quanto mai incazzato per come ci han ridotti in questo stato. Non più la zappa né le minestrine per quella casta di ruba galline che si alternano, ahimè, in continuazione cambiando i culi su quelle poltrone. Trovaci, prego, un'anima cortese che li mandi tutti e per sempre a quel paese. Vabbè, qua siamo alle rime baciate, cara Paola, hai sentito? Hai sentito? Sì, ma chi è che si spaventa, il cane? No, non lo so, infatti il lupo nero, non lo so. Il cane va sotto al letto. Però è bello, perché... tu ci è puoi... bellissimo, ma non ha detto il suo e non ha detto, infatti anch'io dicevo a Miriam, ma chi è? E lei mi guardava e dice, è bello così, puoi appiccicarci il volto che vuoi, anzi, tu, secondo te a chi pensava questo ascoltatore? C'è una lista. No. Secondo te Luca Dini, a chi pensava questo lupo nero che spaventa la nipotina? Non lo so. non lo so, però in politica, vabbè, qualunque cosa dici sei fregato, insomma, a questo punto. Allora, prima dei consigli, Paola Saluzzi, so già, dai, prepara i violini, Peter, che già so. No, niente violini, no, signori. No, però voglio dire questa cosa. Allora, c'è il dramma Niki Vendola. Il dramma Niki Vendola, ma è vero, un dramma vero, eh? Su Repubblica oggi, dopo la telefonata, l'ultima che hanno combinato la Zanzara, no? Quella che è iniziata così, quella quando qua dalla Zanzara, il finto Niki Vendola, Andro Mercù, ha chiamato. Pronto? Barca. Dottor Barca? Ecco. Sì, la sento male, mi dica. Buongiorno, dottor Barca, la segreteria del presidente Vendola, ecco. Le passo il presidente. E vabbè, è iniziata così. Il dramma di Vendola, caro Luca Dini, sai qual è? Cara Paola Saluzzi, fa un'intervista oggi a Repubblica e dice... Non mi parla più nessuno. Non riesco più a avere relazioni telefoniche dopo questi scherzi. Chiamo e tutti mi dicono: sì, un attimo, sono impegnato, ti richiamo io, lasciami il numero di telefono. Caro Luca, il dramma di Vendola, che possiamo fare? Non lo so. Lo sai. Io non amo gli scherzi telefonici. Lo so, devo non li amo. Ma guarda che anche Vendola fa questa intervista durissima, violata la mia privacy, di quello che vuoi a quei farabutti di Cruciani e Parenzo, forza, dai, che così poi... No, non mi piacciono. Non ti piacciono? No, per niente. Per niente. Cara Paola, qua però che dobbiamo fare? Cioè, c'è Vendola disperato? Lo richiameranno. Basta che il numero sia il suo e lo richiameranno, dai. Non lo so, dai, insomma, che dobbiamo fare? Infatti dice, mi chiama, non so più cosa fare, non riesco più a avere una relazione telefonica con nessuno. Ma, sì, mi viene un dubbio, al telefono parla come... nei comizi? Sai che non lo so, questo me lo sono sempre chiesto. Ricordo che una volta Emiliano, sindaco di Bari, che era a fianco a lui, l'ha sentito fare un'intervista, ha finito l'intervista e gli ha detto: ma che hai detto, Vendola? Non ho capito niente. E lui ha detto: ma non capivo neanch'io, meno male. Così racconta Emiliano, dice che neanche lui dice: ma non lo so, dicevo delle cose col mio modo, ma non capivo bene. Lo sai che cosa ha detto una mia collega? Di grandissimo rispetto e di grande storia giornalistica, sì, con la quale ho la fortuna di lavorare, e ha detto: sai cosa, non c'era, non tornava, era troppo asciutto. Forse Barca avrebbe dovuto pensare, parla troppo poco. Sta di fatto che ieri Renzi, incontrando Vendola, sempre Repubblica, ha detto: non chiamarmi perché io non ti rispondo. Gli ha detto, l'ha incrociato e gli ha detto così, si è patti chiari. Quando c'è Vendola, trac, mettono subito giù. Paola Saluzzi. Comunque, cosa... Alessandro, sì. Ricomplimenti per l'imitazione. Vogliamo un'imitazione al giorno. Zeller, mi viene bene Zeller. anche Vendola, sì, ma no, vabbè, adesso non esageriamo. Cara Paola, cosa devi dire? Forza, dillo, dai, su, io ti metto i violini lo stesso. Io vado c'è un momento in cui credi di essere l'unica a vivere qualcosa di speciale, succede con il tumore, ma può capitare anche con altre nefaste occasioni, una gravidanza non riuscita, una grave malattia, un lutto disperato. Poi, dopo una scossa iniziale, ti accorgi di non essere per nulla eccezionale, anzi, capisci intimamente quello che sostenevano i filosofi molti secoli fa, prima dell'avvento di qualsiasi nuova tecnologia, e cioè che la tua vita è un nulla, vacuità pura, che passa e va, e per questo devi assaporarla tutta, a partire dalla cena con le amiche appena conosciute, fino ad arrivare al sorriso di un estraneo incontrato lungo la strada. Sai che devi trarre gioia e felicità da ogni istante, e lo fai in modo sempre più naturale e distintivo. E allora sì, che ti senti fortunata, perché sugli occhi hai una lente di ingrandimento che non hai scelto, che non hai voluto, ma che ti è stata data. Con quella lente sei obbligato a vedere più da vicino persone, cose e sentimenti. Francesca Del Rosso, Wondi, ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro. È un libro che è già andato in ristampa, non è neanche uscito da una settimana. È vero. Il libro di Wondi, ma leggete mettete lo santi nomi. Ma esaurito anche qui a Sanremo. No, veramente. No, attenzione, Luca, di questo un momento è una è una carrambata, essendo mia moglie, poi non ne parliamo più, però è esaurita a Sanremo, ma è vero, caro. Ieri non l'ho trovato. Oggi provo altrove. Accidenti, scusa Luca Dini, do subito parola al direttore. Dalla prima all'ultima pagina è una meraviglia. Vabbè, fermati, qualcuno fermi. No, Luca dice che è esaurita anche a Sanremo, vabbè, sono contento, ma per tanti motivi. E allora che devo dire, caro Luca, che succederà oggi a Sanremo? Ma tu rimani lì tutto il festival, sì? Sì, tutti i giorni. Tutti i giorni? Tutti devi sorbire? No, nel senso... No, vabbè, nel senso buono, nel senso... Sto ragazzo. Che succederà oggi? No, è divertente. Ho visto Vessicchio, capisci? Beppe Vessicchio, il grandissimo, che dirige tutte le canzoni. Beppe Vessicchio dirige da quando avevo 2 anni. Va bene, no, vince Tempera. Ah, vince Tempera, è vero. Va bene, vi devo salutare, vi ringrazio. La copertina, lo so, qua l'ho persa questa rete. No, c'è la copertina. C'è la Litizzetto in copertina. Oggi riesco solo a dire questo, la Litizzetto. Cara Paola, Ci saremo, come sempre. No, vabbè, ma sei scemata di umore sulla Litizzetto. No, c'è la Litizzetto in copertina. Mi mancava il premio, però, sapere la copertina. Ah, ecco, la Litizzetto. Vi devo salutare, grazie, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora alle 7:18 minuti io sono sempre qui a dare il mio invito, il mitico schema che ha reso celebre Max Allegri. Dai, schema vincente. Forza italiani, che bisogna produrre, lavorare, portare i bambini a scuola, andare a pagare le tasse e avere a che fare con le suocere. Tutto questo. Allora, dai, alle 7:18. Noi parleremo di politica, avremo ospiti dalle 8:15, Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, avremo ospite Vito Crimi del Movimento 5 Stelle, Nazareno Pilozzi, deputato di SEL, parleremo anche di questo blocco che c'è all'interno del Parlamento con rischio di far saltare, altro che situazione sbloccata, rischio di far saltare i decreti, a cominciare da quello sul finanziamento ai partiti. Ce la faranno? Pare di sì, le ultime novità, le ultime news, ma lo scopriremo. Intanto andiamo a sfogliare i quotidiani che trovate in edicola. Questo mercoledì 19 febbraio i titoli, il Sole 24 Ore apre così: spread BTP Bund sotto 190. Questa è la cifra confortante sullo spread. Il Corriere della Sera è l'unico grande quotidiano che apre su quello che sta succedendo in Ucraina. Battaglia e sangue a Kiev, questo è il titolo. La polizia assalta i manifestanti, morti e feriti nelle strade. La situazione politica invece per Repubblica: Alfano, 3 condizioni a Renzi. La Stampa: Renzi alla trattativa finale, il governo entro venerdì. Il Messaggero: Renzi, voglio una squadra mia. Il Giornale: Renzi mette in riga Alfano. Mentre per Avvenire, vertice senza Renzi, oggi summit di maggioranza. Il titolo invece dell'Unità: governo Renzi più vicino. Insomma, Renzi in tutte le salse, anche quella di Libero, le nuove tasse di Renzi. Mentre il Secolo XIX, Alfano apre a Renzi, stessa coalizione. Il Fatto Quotidiano invece apre con Grillo e i licenziati e il festival della protesta. Mentre la resa dei conti è il titolo del Manifesto: dai capannoni alla piazza, dal benessere alla povertà, artigiani, piccoli imprenditori, commercianti decimati dalla crisi, abbandonati dalla politica, invadono Roma. E questa è l'apertura l'unico giornale che apre il Manifesto, mette questa notizia in primo piano. Allora, avete visto Sanremo? Non avete visto Sanremo? Certamente ci sono le polemiche, più che Sanremo le canzoni, quest'anno come al solito ci sono le scene prese da altre iniziative. Quest'anno due, e soprattutto sono l'inizio con questi due precari che da 16 mesi non ricevono lo stipendio, due lavoratori che si sono innalzati fino ai tralicci, diciamo, la scenografia nei piani più alti dell'Ariston, e hanno interrotto il festival mentre Fabio Fazio all'inizio parlava, proprio all'inizio di serata, e urlando: ci buttiamo di sotto se non leggi questa lettera. L'avevamo sentito l'audio, forse l'avete sentito anche nel giornale radio. Fazio che ha interrotto, prima un po' indurito, ha detto: state rovinando il lavoro di centinaia di persone, e poi invece ha capito che la situazione poteva versare verso un dramma vero e proprio, e quindi ha detto: va bene, scendete giù, leggo la lettera. Ha letto la lettera, disperati sulla ringhiera. Il Fatto Quotidiano, tra l'altro, mette questo titolo un po' curioso nell'articolo di Silvia Truzzi: Beppe, cioè Beppe Grillo, che era lì a Sanremo ed è stato l'altro protagonista fuori scena. Io non c'entro, perché questa è un po' la domanda che il Fatto Quotidiano si pone, è l'unico giornale che la pone in maniera sospetta e in maniera anche un po'... come dire, provocatoria. Due lavoratori senza stipendio da 16 mesi, ma con un biglietto da 180 euro. Minacciano di gettarsi dal vuoto. Leggete la nostra lettera. Sono Antonio Sollazzo e Marino Marsicano, lavoratori del consorzio di bacino di Napoli e Caserta, senza stipendio da 16 mesi, appunto. Si sono arrampicati, scrive il Fatto, sulle impalcature in gallerie, urlano per attirare l'attenzione del presentatore, che all'inizio protesta, poi si arrende. All'inizio è innervosito, perfino l'aria bellicosa, scrive Silvia Truzzi. Le pare il caso? State impedendo il nostro lavoro. Sembra diventato cattivo per un attimo, i due però non sembrano particolarmente impressionati. Alla fine Fazio torna in sé, si addolcisce, sembra anche spaventato, teme che il festival diventi della serie Stasera mi butto, e inizia: non faccia sciocchezze, ripete al lavoratore, e poi si fa dare la lettera e la legge. E insomma il Fatto mette questa frase anche di Beppe Grillo: io non c'entro. E poi l'accusa: chi aveva preso i biglietti per 180 euro per queste persone? Ecco, l'altro protagonista è stato proprio Beppe Grillo, che ha tuonato contro la RAI, ha fatto il comizio sul tappeto rosso, come titola il Corriere della Sera pagina 49. Poi tra il pubblico è andato con il figlio Rocco, ha avuto anche uno scambio di battute col conduttore durante gli spot: sto arrivando da te. Ma dopo le 22 in realtà ha lasciato il teatro, è andato dentro all'Ariston, che era con una Sanremo blindata, pensate, per l'arrivo di Beppe Grillo, come racconta il Secolo XIX, che segue ovviamente in prima persona tutti gli sviluppi di Sanremo. Nell'articolo di Paolo Crecchi si parla di una Sanremo blindata fin dal mattino. E poi che succede? Che in realtà all'interno dell'Ariston Beppe Grillo è stato anche abbastanza tranquillo, anzi non ha detto praticamente niente. Grillo superstar, ma è sempre la solita canzone, così titola il Secolo XIX, pagina 28, zittisce chi tra il pubblico urla all'operaio: buttati. Prima fatto il comizio fuori, ma all'interno si vociferava addirittura di cartelli da innalzare in platea prima che lo show andasse a cominciare. Non era vero, praticamente è stato muto, e dopo le 22 ha abbandonato il palco. Questa è la questione di Sanremo, che sarà protagonista tutta la settimana. Vedremo se ci saranno altri tipi di provocazione, altre situazioni. Cominciamo a leggere i giornali, altre notizie, e voglio partire, cari ascoltatori, voglio eleggere, se possibile, quella che per me è l'eroina del giorno, almeno leggendo i giornali. Ho trovato di lei due articoli, una pagina sul Quotidiano Nazionale, una mezza pagina sul Corriere della Sera. A firma Fulvio Bufi, in quest'ultimo caso sul Corriere, è Angela, la dirigente che si barrica per bloccare i precari. In campagna, a Napoli, ci sono i lavoratori socialmente utili, LSU in sigla, che da giorni stanno occupando alcune scuole entrano perché vogliono evidentemente, l'altro ieri hanno occupato una settantina di scuole tra Napoli e provincia, protestano per il dimezzamento dello stipendio, temono di perdere il posto di lavoro e quindi occupano. Ebbene, eroina questa dirigente, Angela Palomba, dirigente scolastica del circolo didattico Guglielmo Marconi di Pozzuoli, ha vinto la sua personale battaglia contro i lavoratori ex LSU, addetti alle pulizie che stavano per occupare anche la sua scuola, come altre 70 tra Napoli e provincia. Racconta il Corriere, la dirigente Palomba è stata molto sveglia per riuscire ad avere la meglio sui potenziali occupanti. Sveglia nel vero senso della parola, perché l'altra notte, intorno alle 4, mentre un gruppo di ex LSU sostava mezzo assonnato davanti ai cancelli di uno dei plessi che fan parte del circolo didattico, lei è passata da un ingresso secondario e si è barricata in ufficio. I cancelli non li ha fatti aprire, è riuscita perfino a far entrare gli impiegati della segreteria. Alla fine i manifestanti se ne sono andati alla ricerca di un'altra scuola da occupare, quindi il blitz della preside è perfettamente riuscito. Lei dice: per carità, io capisco il disagio di chi perde il lavoro, rispetto il problema di queste famiglie, ma la soluzione non è l'interruzione di pubblico servizio e non è quella di danneggiare gli studenti e la scuola. Questo per me la rende, ma mio parere personale, sono disponibile alle critiche, eroina del giorno. Avete sentito, capisco il disagio di tutti, ma la risposta non è interrompere il pubblico servizio e danneggiare gli studenti e la scuola. Così dice Angela Palomba. Anche sul quotidiano nazionale, basta con le occupazioni, preside si barrica a scuola a Pozzuoli contro la protesta degli addetti alle pulizie. Con un'azione, un blitz notturno è riuscita a fare questo. E poi vi voglio segnalare sulla stampa, prima di andare in pubblicità e tuffarci nel solito profluvio di articoli semi inutili sul chiacchiericcio della politica in vista della formazione del governo, basta mail di lavoro fuori orario. È un'iniziativa, come racconta Tonia Mastrobuoni da Berlino per la stampa, pagina 19, che sta proliferando nelle aziende tedesche. Deutsche Telekom l'ha fatto, la Bayer l'ha fatto, ora anche la BMW. Cioè, che cosa? Basta disturbare i dipendenti nel tempo libero. Una volta che i dipendenti delle aziende escono dall'orario di lavoro, alcune aziende addirittura disattivano la possibilità che i dipendenti possano essere contattati, soprattutto via mail, con questi smartphone dove sei raggiungibile ovunque con la mail, anche fuori dall'orario di lavoro. Racconta la stampa, la apripista è stata proprio Deutsche Telekom, in particolare il capo del personale Thomas Sattelberger ammette di essere stato tra quelli che mandavano mail a orari assurdi e, pentito dalla reperibilità ogni ora del giorno e della notte, 4 anni fa ha ottenuto che nessun dipendente del colosso delle telecomunicazioni fosse più costretto a leggere la posta elettronica dopo aver abbandonato la scrivania, anche perché i vertici si erano spaventati per i rapporti che provenivano dalla concorrente francese France Telecom, colpita da una vera e propria ondata di suicidi e provocata da un clima di stress e tensioni insostenibili sul posto di lavoro. E dunque Deutsche Telekom prese questa iniziativa. L'ultima in ordine è BMW, che ha deciso che gli impiegati possono stabilire coi propri capi le ore di reperibilità extra ufficio e soprattutto che quei preziosi minuti sottratti al tempo libero debbano essere considerati straordinari da recuperare nel corso della settimana lavorativa. Vi rendete conto, cari italiani, come sono avanti da questo punto di vista, no? Alla BMW sei a casa, fuori dall'orario di lavoro, sei un dirigente, che ne so, comunque un responsabile, devi fare 20 minuti alla mail, questo è considerato straordinario, lavori 20 minuti in meno durante la settimana di lavoro. Basta mail di lavoro fuori orario. Ve la segnalo, un articolo molto interessante sulla stampa, pagina 19. E allora, dopo la pubblicità, riprendiamo dalla politica. Ce la farà Renzi entro venerdì? Questa è la timeline che è stata indicata, la più probabile ipotesi. Entro venerdì la formazione del governo ce la farà e con chi? Alessandro Milan, il Van Basten dell'informazione. Un eroe, ma Van Basten, un grandissimo. L'ho visto segnare a San Siro dei gol, se ci penso, Marco Van Basten. Ah, mamma mia. Vabbè, allora, La situazione politica, entro venerdì forse c'è il governo Renzi, questa è la notizia sui giornali. Tra l'altro Renzi ieri ha incontrato, ha iniziato le consultazioni. Secondo Mariolina Sesto c'è l'accordo per chiudere anche la questione del finanziamento ai partiti, e questo lo vedremo alle 8:15. Secondo i giornali, tutti gli altri giornali, c'è l'accordo anche per andare avanti a formare la squadra. Già, ma quale squadra? Beh, guardate qui, ripeto, è un elenco di articoli, di chiacchiericcio, di colore. Per esempio, abbonda oggi il colore su Matteo Renzi, che ieri è arrivato a Roma e ha detto non sapeva neanche dove andare per entrare nella Camera. Non ci sono mai stato, da che parte si entra, no? Quasi a rimarcare la differenza tra lui e la casta romana che vive in Parlamento. E poi c'è l'incontro e il racconto di tutti gli incontri con i cespugli cosiddetti, cioè i partiti piccolini. In ogni caso, Emilia Patta sul Sole 24 Ore racconta come ci sia stata una schiarita con Alfano. Resta il nodo del tesoro, cioè chi occuperà la casella del tesoro. Questo è il titolo del Sole 24 Ore a pagina 5. Tra l'altro c'è un articolo, un corsivo abbastanza urticante di Fabrizio Forché in prima pagina del Sole, dal titolo AAA Ministro Cercasi, il Toto Ministri, un genere letterario che appassiona l'informazione italiana da sempre, oggettivamente minore ma con un suo piccolo pubblico di estimatori che poi sono in gran parte i diretti interessati. Tuttavia il turbinoso alternarsi di nomi improbabili che in questi giorni vengono associati alla guida del Ministero dell'Economia testimonia qualcosa di diverso e di più grave. È la cartina di tornasole di una classe dirigente politica e non solo, talmente impoverita da non riuscire più a esprimere personalità in grado di ricoprire ruoli così delicati. Alla guida del ministero servono competenze indiscutibili, autorevolezza, prestigio internazionale, ma chi oggi in Italia risponde a questo ritratto? Ti guardi in giro, ti consulti, ma un nome davvero credibile non viene fuori. E non per veti o interessi di parte, ma proprio perché non sembra più esistere in natura, in Italia, oggi. E questo è il dato più preoccupante. Ecco, questo sulla prima del Sole. Sta di fatto che anche per il Corriere della Sera, l'articolo di Verderami, tra Angelino e Matteo, Alfano, dunque Renzi, è iniziato il disgelo. Possibile compromesso, nonostante Alfano tuoni contro la patrimoniale, tra poco vedremo, ci sono anche tanti articoli sul programma economico possibile di Renzi. Ma al di là delle dichiarazioni di facciata sembra che l'impasse si sia rotta. Ecco, anche questo articolo del Stampa, Fabio Martini, sbloccata l'impasse, niente vice premier, i ministri saranno 18, dunque niente vice premier, questo anche per Mario Aiello in pagina prima del Messaggero, poi l'articolo continua a pagina 4, l'idea è questa, non ci sarà vice premier. E anche Marco Conti a pagina 3 del Messaggero: con il nuovo centrodestra è andata benissimo, li ho ascoltati, abbiamo parlato di programma, tutto procede speditamente. Così Matteo Renzi rientra al Nazareno, sede del PD, e spiega ai suoi la prima giornata di consultazioni con i partiti. Oggi si ricomincia, Forza Italia, Partito Democratico, e poi anche Beppe Grillo, vedrà, perché il Movimento 5 Stelle andrà con il capogruppo, e anche con Beppe Grillo, pensate, Grillo e Renzi, grandi avversari. Chissà chi sceglierà l'arma del duello. Vabbè, a parte le battute, insomma, questo continua con le consultazioni. Anche il quotidiano Repubblica, pagina 2-3, fa il colore soprattutto, no? Con Sebastiano Messina, il primo giorno nel palazzo. Dov'è l'aula? Finora l'ho vista solo in TV. Renzi che arriva, Renzi che non sa dove andare, dicono venga di qua, due croniste che si intrufolano, lui la incontra e dice siete very dangerous, e chiude la porta dell'ascensore e se ne va. E poi cosa c'è da dire? Incontra un vecchio compagno di scuola che oggi è onorevole Movimento 5 Stelle, Massimo Artini, lo abbraccia, dice ma lo ti abbraccio di nascosto se no ti rovino la carriera. Incrocia Vendola e dice Vendola chiariamo subito, a me non chiamarmi perché se no io non ti rispondo per la questione degli scherzi della zanzara. Insomma, articoli così che raccontano il colore e le difficoltà e il toto ministri, quindi le faccine ovunque sui giornali. Il Corriere la mette ancora a pagina 10 e 1 11 il possibile governo con tutte le faccine, questo gioco un po' stantio che interessa soprattutto i diretti protagonisti, forse alla giustizia Livia Pomodoro che sale, forse ci sarà Guido Calvi invece, Roberta Pinotti è data sicura alla difesa. Al tesoro Renzi spinge per avere, visto che vuole la sua squadra, Del Rio e il suo fedelissimo, oggi ancora ministro. E insomma, così. E il Fatto Quotidiano che racconta, pagina 3, la giornata di Renzi a incontrare i cosiddetti cespugli. A un certo punto, racconta Fabrizio D'Esposito, incontra quelli di L'API, sono in due. Poi incontra il Centro Democratico, sono in tre, Tabacci, Pisicchio e Formisano, e giura il Fatto, Tabacci strappa anche un posto nel governo, viceministro. Poi il CD, che è CD, non lo so, sono questi, il Centro Democratico. Poi incontra l'SVP di Zeller e Matteo Renzi gli dice: vorrei tanto, ho sempre avuto il sogno di sciare sulle vostre montagne. E Zeller gli dice: e perché tu non finire da noi? E questo è il racconto, fino a quando incrocia anche Calderoli, che alla fine della giornata delle consultazioni dice al cronista del Fatto Quotidiano: guardate, io conosco Matteo Renzi, ha un gran culo, ha un culo così, e vedrete che ce la farà perché il fattore C funziona. Titolo di pagina 3 del Fatto Quotidiano: Matteo ha un gran culo, la questua di cespugli in fila. Ecco, capite il livello del dibattito politico in questi giorni di formazione di governo. C'è anche il dramma di Nichi Vendola, dramma vero e proprio, perché intervistato da Repubblica da Giovanna Casadio, prima di parlare del possibile appoggio di Sel al governo Renzi, e dice di no, violata la privacy mia e di Barca, parla ovviamente dello scherzo della zanzara, ora nessuno mi parla al telefono senza avere prima verificato se sono davvero io o il finto me. Un bel danno davvero. Nichi Vendola: ma come? Sì, ho difficoltà ad avere relazioni telefoniche, quando chiamo tutti mi rispondono, aspetta, ti richiamo io. E aggiunge: è stata una violazione abbastanza pesante di uno spazio di conversazione privata tra due persone che a rapporti di cordialità hanno il diritto di parlare in libertà. Se io con mio fratello parlo male di mio zio perché ha fatto uno sbaglio e sono arrabbiato, ebbene la pubblicità di un frammento non fotografa la verità assoluta. Insomma, Nichi Vendola che ce l'ha con quei malandrini, mascalzoni, farabutti, disgraziati della zanzara. Gli aggettivi ovviamente li ho aggiunti io. Dalla parte invece del centrodestra c'è un Forza Italia che sta vedendo se la linea soft paga davvero, tanto che oggi Claudio Cerasa sul Foglio scrive in prima pagina un articolo molto interessante di analisi dal titolo Renzi, il cavaliere, tutte le conseguenze dell'amore sulla nascita del governo. Scrive Cerasa: si piacciono e questo si sa, e parla di Renzi e Berlusconi, si cercano e questo si sa, si sentono e questo si sa, quello che si sa meno è che si intuisce, ma ancora non si capisce, dell'abbraccio tra il cavaliere bianco e il cavaliere nero, del rapporto speciale, della sintonia profonda tra Renzi e Berlusconi. Riguarda una domanda: quali saranno le conseguenze dell'amore tra Renzi e Berlusconi sul governo Leopolda? Questo è quello che si chiede Cerasa. L'idea è che Forza Italia in qualche modo non appoggerà, ma lascerà fare, dunque si sfotticchiare Renzi per i metodi da Prima Repubblica adottati per rottamare Letta, ma mostrare in tutte le occasioni la propria volontà di rispettare il contratto con gli italiani firmato con Matteo e di collaborare come promesso a Napolitano alle riforme istituzionali. Ora il difficile sarà per Renzi a mantenere questo rapporto con Berlusconi e anche con Alfano, cioè il legame doppio con i due partiti del centrodestra. Vabbè, intanto Berlusconi è preso da altre vicende che vedremo tra poco, vicende private. Sai, caro Mauro Meazza, quali sono? Mauro, buongiorno. Ho visto qualcosa, buongiorno, ma sei proprio Alessandro Milan? Non lo so, e tu se chiama Vendola tu non rispondere. Questo. Magari ti richiamo io? Sì, va bene, fai pure. Ho visto che si parla anche di voi oggi sul Sole 24 Ore, sì, cioè di noi, insomma, di Radio 24, sì. Gli ascolti, certo. Bene. Bene, benissimo, benissimo. Nonostante questa telefonata che mi fai tutte le mattine, quindi siete proprio bravi, insomma. Cerchi di affossarli ma non riesci, smettila, su, avanti, cosa c'è sul Sole? Allora, Radio Fisco importante, chiarezza su questione fotovoltaico e catasto. Guarda, non è importante, Alessandro, che capiamo tu e io, è un pasticcio, perché impianti fotovoltaici per produrre energia ne sono stati fatti tanti, ma c'è stato un po' c'è stata una diatriba tra il catasto e il fisco, tutta una cosa interna al fisco. Adesso avrebbero trovato una chiarezza, lo spiegano bene nelle pagine di norme e tributi. Poi ti voglio dire che torniamo sulla vicenda dell'IMU, tu non l'hai studiata, adesso arriva anche per il terzo settore, ecco. E il programma va avanti però, Alessandro, non è che tutta la classe può aspettare te. No, ma infatti qua lo sai che è così. L'Italia va avanti, io rimango indietro, questo è un gran classico. Te lo voglio dire. Guarda, poi una cosa per gli automobilisti, gli autovelox che non, diciamo, segnalano dove sono le postazioni ma non avvisano se sono realmente operanti o no, quelli vanno bene. Lo dice Maurizio Caprino, e chi se no, che ci racconta nelle pagine di norme una sentenza della Cassazione, e che appunto ha detto: no, vabbè, ma se l'autovelox, diciamo, se il navigatore ti avvisa solo della postazione abituale dell'autovelox, ma non ti dice se è acceso o meno, va bene, quindi non è vietato averlo. E poi un'ultima cosa un po' trista, cioè, il contratto con i bancari non va avanti, ma ieri il vicepresidente Abbi ha detto che non ci sono neanche i soldi per gli aumenti, quindi vabbè, leggete, come dire, Cristina Casadei su Imprese e Territori. Purtroppo è così, insomma, il momento è questo, caro. Il momento è questo, che dura sì. da un po' di tempo, si dice così. Caro Mauro, mi chiedono se stasera vedrò Sanremo o la penultima partita del Milan in Champions League. Direi che vedrò la penultima partita del Milan in Champions League. Ringrazio. Ma che cos'è Sanremo? Sanremo non lo so, tra poco non saprò neanche più cos'è la Champions League. Volevo chiederti cos'è la Champions League, ma tu non lo sai più da un po', insomma, noi l'abbiamo vinta anche molto più recentemente di voi, ma insomma adesso, che noia, la memoria noia. Vi fa comunque difetto. Sappi che Renzi, incontrando ieri Vendola, racconta Repubblica in questi articoli imprescindibili sul Colore, ha detto: caro Nichi, tu non chiamarmi perché io non ti rispondo. Ecco, quindi il dramma di Vendola continua. Non ho capito, ma tu sei il vero Alessandro Milan? Sì, sono io. Ci troviamo domani. Alessandro Milan, il Mauro Meazza dell'informazione. Eccolo lì. Allora, intanto Berlusconi e Veronica Lario sono ufficialmente divorziati. Berlusconi e Veronica tornano single, così titola pagina 15 del Corriere, ma tutti i giornali hanno questa notizia. Si devono mettere d'accordo solo sulla liquidazione. Il tribunale prima aveva condannato Berlusconi a pagare 3 milioni di euro al mese, 100.000 euro al giorno, poi sceso credo a 1.400.000. L'idea, così racconta Giuseppe Guastella sul Corriere, l'articolo più approfondito sul caso, è che i legali vorrebbero dare una liquidazione una tantum, calcolandola come 1.400.000 euro l'anno per il numero degli anni di aspettativa di vita. Così, una tantum track. Questa è l'idea che vorrebbero fare i legali. Ovviamente ora si apre il toto matrimonio. Si sposerà con Francesca Pascale, con Dudu Paggetto? Chi lo sa? Questo è quello che si vedrà. Intanto c'è la polemica su Libero a pagina 7, perché c'è una foto, tra l'altro è stata scattata, pare, da Aurora Lussana, se così ho capito, nostra amica, direttore della Padania, che ha fatto una foto a Cécile Kyeng, che esce da una boutique di lusso, e l'accusa è accompagnata con l'auto blu e la scorta. A due palla Kyeng fa shopping in auto blu. L'articolo con Filippo Manwuller lo trovate su Libero e anche in prima pagina della Padania. La Kyeng che pare esca proprio da una boutique di lusso con l'auto di scorta, l'auto blu, e le aprono la portiera. Vabbè, c'è gli unici articoli interessanti sulla questione della formazione di governo sono su cosa vuol fare Renzi per quel che riguarda le tasse. Ebbene, vi segnalo il Corriere della Sera: il fisco e le rendite, nei piani un prelievo oltre la soglia del 20%, raccontano Roberto Bagnoli, Enrico Marro, a pagina 5, si parte dalla solita discussione sulla sinistra e la patrimoniale, una tentazione ricorrente. Ieri Filippo Taddei, il responsabile economico del PD, dice: non c'è alcuna patrimoniale in vista, più che altro, raccontano sul Corriere della Sera, l'idea di Matteo Renzi, i ragionamenti base sono questi: alla fine la patrimoniale colpisce i risparmiatori medi, i grandi capitali sono tutti all'estero e quindi sarebbe un favore agli evasori. Nel merito poi di che patrimoniale si parla? Il modello Amato Savona, cioè una botta da 400 miliardi, rischierebbe di uccidere la già debole economia. Una manovra soft da, diciamo, 50 miliardi non servirebbe a nulla, così come sembra perdere quota la privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Quello che invece andrebbe alzato, dicono gli uomini di Renzi, è il prelievo sulle altre rendite finanziarie, plusvalenze azionarie obbligazionarie, dividendi, interessi sui depositi bancari, perché il 20% è ancora 4-5 punti sotto il livello medio di tassazione in Europa. Dunque alzare le tassazioni sulle rendite finanziarie oltre il 20% e usare questi soldi per abbassare l'IRAP. Questa pare l'idea più concreta che circola da giorni, con il giornale Francesco Forte che titola in prima pagina: Renzi, le rendite non si toccano. Vittorio Feltri che dice: non fate per carità la patrimoniale. Sta di fatto che questa pare l'ipotesi più concreta, quella della patrimoniale. No, ma l'aumento delle rendite finanziarie. Ci sarebbero tanti articoli sulla questione ucraina di cronaca. Vi segnalo, più che la cronaca, la testimonianza che trovate molto intensa e molto dura in prima pagina sul Secolo XIX. Cosa sta succedendo in Ucraina? Ci sono già almeno 20 morti, abbiamo sentito il giornale radio, si teme anche molto di più. Kiev brucia, ho visto la polizia caricare anche i bambini. Victoria Titarienko, in prima pagina del Secolo XIX, fa questa testimonianza molto molto dura. Sta bruciando Maidan, c'è fuoco, si sentono spari nella nostra piazza grande. I titucchi, i provocatori protetti dalle forze speciali, i Berkut, hanno bruciato con benzina e bombe Molotov le nostre tende, i rifugi per la notte in cui da mesi dormiamo. Oggi è stato il giorno più lungo per noi. Questa sarà la notte più lunga. Era cominciata sotto il segno della speranza. Putin aveva promesso che la Rada, cioè il Parlamento, avrebbe ripristinato l'articolo sulla Repubblica parlamentare presidenziale del 2004. Per questo abbiamo cessato l'occupazione, abbiamo liberato le strade del centro. Ora contiamo i morti e i feriti. 13 ammazzati, 7 del Maidan, 6 miliziani, in realtà sono molti di più, tanti feriti, quanti non ce ne stanno negli ospedali di tutta la città. I Berkut, cioè le forze speciali, hanno massacrato davanti ai nostri occhi uomini, donne, anche bambini, hanno picchiato persone mentre scappavamo. Alcune donne si sono avvicinate a dire: cosa state facendo, figlioli? Ma loro sembravano posseduti da qualcosa di più forte, picchiavano, ha massacrato un uomo davanti ai miei occhi. È una testimonianza molto forte che trovate sul Secolo XIX in prima pagina. Ho visto la polizia caricare anche i bimbi. Vabbè, stride molto oggi, ma anche oggi c'è il premio La Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali oggi. Come faccio? Sul giornale? Una ricerca scientifica all'Università di Boston, una ricerca scientifica. Se lei davvero ti ama, deve chiamarti coi vezzeggiativi. Cucciolotto, patatino, leprotto, ciccio, bibo. Pucci Pucci, Pulcino, una ricerca scientifica, il giornale ci fa una pagina, se ti ama deve chiamarti così, Ciupa Ciupa. Ciupa Ciupa non è un vezzeggiativo, sembra più un invito, ma cos'è? Lo stesso giornale scrive: per piacere, non dite messaggini, chi se ne frega. Ma sì, lo urliamo in radio, ma chi se ne frega di un articolo del genere? Bibo. Ma pensa te, andiamo al giornale radio, dai. Mattino. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Allora, Renzi assicura, o così pare dai giornali, entro venerdì ci sarà il nuovo governo, il suo governo pare senza vice premier, 18 ministri, ma insomma in realtà vedere la situazione pare un pochino impantanata. Ci sono le consultazioni, oggi toccherà il faccia a faccia con Forza Italia, dunque Berlusconi, e con il Movimento 5 Stelle molto probabilmente con Beppe Grillo in persona. Ieri le prime consultazioni si sono succedute, varie delegazioni di partiti, tra queste anche Fratelli d'Italia, di cui saluto Giorgia Meloni, onorevole capogruppo alla Camera. Buongiorno e benvenuta, onorevole. Grazie, buongiorno a voi. Senta, prima di chiedere e capire che cosa avete detto a Renzi, intanto le chiedo questo: sa che Renzi, no, è famoso per essere ipercinetico, correre, correre, andare avanti. Lei l'ha visto più determinato a correre oppure verrà frenato dalla palude romana, come qualcuno l'ha definita? Beh, che lui si è determinato a correre, questo mi sembra evidente, insomma, del resto, voglio dire, voleva rottamare liturgia, ha finito per rottamare finora soprattutto tutti quelli che ha incontrato, diciamo, tra lui e la poltrona di premier. Però poi ovviamente non bisogna dimenticare che non c'è molta differenza tra la maggioranza, anzi non c'è differenza tra la maggioranza che sosteneva Letta e che ha di fatto contribuito a impantanare Letta e quella che adesso sosterrà Matteo Renzi, e purtroppo quando ci si infila nel gioco di palazzo e nelle liturgie del palazzo, il rischio di essere rallentati, affogati, finiti di finire diciamo vittime dei franchi tiratori è un rischio che si corre, insomma. Quindi è per questo che voi mi pare abbiate ribadito la linea, era bisognava andare a votare, questa era la linea vostra? Beh, la linea era ovviamente sì, è quella di, diciamo così, protestare contro il terzo governo di fila che bene o male non viene definito dagli italiani e dalle loro scelte, questo sia perché praticamente in Italia sembra che le elezioni siano diventate una cosa quasi maleducata, no? Cioè si parla delle elezioni come una cosa che fa quasi schifo, no, ma possiamo andare a votare, ma siamo impazziti. E io ricordo, insomma, che la nostra Costituzione su questo è abbastanza chiara, e cioè dice che la sovranità appartiene al popolo, però il popolo italiano di sovranità non ne esercita, serve solamente, sembra, a pagare più del 45% di tasse, però poi non è che ha molta voce in capitolo su chi debba amministrare quelle risorse. E secondo me anche il fatto, diciamo così, di dire sempre non si può andare a votare perché non c'è la legge elettorale o perché con questa legge elettorale sarebbe una vergogna. Io devo segnalare che questa legge elettorale c'è perché i partiti, e in particolare quelli che governano da ormai più di 2 anni col governo Monti, col governo Letta, non hanno voluto modificare quella legge. È chiaro che questo è un pretesto, cioè si dice siccome c'è questa legge elettorale non si può votare. Però, allora perché mi colpisce, lo dico anche perché però anche votare, ogni anno, onorevole Meloni, non è che... Ma guardi che se noi votassimo una legge fatta nell'interesse degli italiani e non nell'interesse dei partiti che la scrivono, non avremmo bisogno di votare ogni 5 anni, è qui che voglio arrivare. Fratelli d'Italia presentò, noi presentammo già quando eravamo nel PDL addirittura, ma poi ripresentammo quando fummo eletti con Fratelli d'Italia, una modifica dell'attuale sistema elettorale che, io l'ho detto tante volte, si poteva approvare immediatamente, veramente si faceva in 2 settimane, e che avrebbe garantito fondamentalmente 2 cose che poi sono quelle che rendono il porcello un tale. E il diritto da parte degli italiani di scegliersi i propri parlamentari e quindi le preferenze, che guarda caso non vuole nessuno, neanche Matteo Renzi, perché poi stiamo facendo questa grande rivoluzione per ridarci una legge elettorale e rinominarsi parlamentari senza vergogna proprio, e un premio di maggioranza al Senato su base nazionale che avrebbe fatto cosa? Ci avrebbe dato una maggioranza stabile in entrambi i rami del Parlamento, che è quello che non si ha, non perché gli italiani votano male, come cercano di dirci questi partiti presuntuosi, ma perché c'è una legge elettorale che è molto difficile che consenta di avere una maggioranza, e quella che si sta facendo è una legge elettorale che rischia di riproporci questi 2 cancri e di essere venduta anche come una cosa nuova, alla vede che non tiene. Non tiene. No. Senta, l'appoggio a Renzi da parte vostra è escluso, è vero che ascolterete prima in Parlamento quando si formerà il governo, ma mi pare di capire che è impossibile un appoggio dei 9 deputati di Fratelli d'Italia alla Camera. No, guardi, sulla fiducia ovviamente non c'è la nostra disponibilità a votare la fiducia, perché, ripeto, noi contestiamo a monte la genesi di questo governo e contestiamo, diciamo, il metodo. Nel caso specifico io penso sinceramente che il metodo sia anche qualcosa che tradisca, diciamo, una certa assenza di sincerità da parte di Matteo Renzi, che, come è stato tante volte ricordato in questi giorni, ci aveva promesso e giurato che non avrebbe mai fatto cose del genere, e quindi chiaramente per ora io direi che non c'è da fidarsi. Dopodiché quello che noi faremo e che Fratelli d'Italia ci ha fatto col governo Letta è valutare invece in questo caso sì senza pregiudizi il merito dei provvedimenti. Questo certo. Però lei lo definisce come un golpe quasi, cioè come un golpe bianco, cioè Renzi che ha pugnalato, diciamo, il leader. No, della io non lo definisco come un golpe bianco, io lo definisco come un gioco di palazzo della Regione Prima Repubblica, che è un'altra cosa. Cioè io sognavo di entrare anche, devo dire, con Matteo Renzi nella Terza Repubblica, nel senso che anche io ero affascinata, diciamo, dall'idea di questa persona che si faceva spingere dal consenso dal basso per combattere contro l'establishment. Poi me lo trovo che una volta diventato establishment si comporta peggio degli altri establishment e sembra molto molto molto spinto e sostenuto da quegli stessi poteri forti che stanno massacrando gli italiani. Beh, allora per me diventa francamente una cosa non sostenibile, e sono anche delusa, voglio dirle, generazionalmente parlando, perché sì, io avevo creduto a questa vicenda, no, dei quarantenni che cambieranno tutto, che cambieranno le liturgie di una certa politica, che diranno finalmente la verità, che saranno coerenti costi quel che costi con quello che hanno detto. Sì, invece lo vede da Prima Repubblica, lo vede da Primissima Repubblica. Sì, Prima Repubblica. Senta, domenica Fratelli d'Italia so che farà le primarie, forse sì, è una cosa che lei auspica facesse Forza Italia anche, e quindi Silvio Berlusconi? Beh, io auspicavo che se facesse il Popolo della Libertà quando ero nel Popolo della Libertà, tant'è che uno dei motivi per cui poi è nato Fratelli d'Italia, insieme alle scelte politiche appunto di sostenere Monti piuttosto che sono nate da lì, insomma, dalle mancate primarie. Perché a destra allora, non prendono le primarie? Cioè, adesso questo lo deve chiedere a Berlusconi e anche ad Alfano, insomma, che oggi chiede le primarie, ma quando era segretario del Partito del Popolo della Libertà purtroppo non ci diede una gran mano al tempo. Quello che io posso dire è che noi siamo, in questo caso appunto, torniamo al tema di prima, cerchiamo di essere coerenti con quello che andiamo raccontando come Fratelli d'Italia, e siamo anche un po' in controtendenza, perché appunto in una stagione nella quale ci si ripropongono le liste bloccate, ci si fanno i governi nella direzione nazionale del Partito Democratico, noi proviamo a tornare in mezzo alla gente, chiedere agli italiani che vogliono partecipare come la vedono su. E quindi nelle primarie di sabato e domenica, tutte le informazioni, così faccio lo spot, si trovano sul sito di Fratelli d'Italia, sul sito nazionale di Fratelli d'Italia, Gazebo, eccetera. E noi facciamo scegliere il presidente, i delegati, i grandi elettori del Congresso nazionale, il simbolo nuovo, perché stiamo facendo una modifica del simbolo che raccoglie anche l'eredità di Alleanza Nazionale. E li interroghiamo anche su alcuni temi rilevanti, insomma, sulle scelte politiche che Fratelli d'Italia deve fare, anche per esempio rispetto alla coalizione, perché per esempio noi riteniamo che una delle possibilità di una coalizione nel centrodestra debba essere quella delle primarie, che in assenza di quelle primarie la non si fa la coalizione. Le voglio chiedere questo sulla vicenda dei Marò, perché proprio qui a questi microfoni Emma Bonino di recente aveva detto che un po' la colpa era stata in realtà di La Russa, che quando era ministra della difesa, ora sua collega, aveva fatto questa legge e ora sbraita tanto dicendo ma ha creato lui la situazione. Lei ieri ha incolpato, diciamo, il governo Monti per questa inazione nei confronti dei Marò. Intanto che dovrebbe fare l'Italia? Cioè, se lei fosse ministro, che si può allora, fare? Intanto rispondo un secondo alla Bonino, perché la Bonino va dicendo una cosa falsa. Lei sa benissimo che quando la legge alla quale fa riferimento fu approvata, benché fosse ministro La Russa, quella legge fu approvata trasversalmente da tutto il Parlamento e l'iniziativa era del Partito Democratico di quella legge. Dopodiché il problema della situazione dei nostri Marò non è tanto la legge che consente ai nostri Marò di esercitare quel tipo di missione, è come il governo italiano si è comportato nel momento in cui di fronte a un incidente, a una difficoltà, c'è stato questo contenzioso aperto, perché a monte verrebbe da chiedere banalmente, e non so perché la Bonino non l'abbia mai chiesto, chi diede l'ordine a una nave che si trova in acque internazionali dopo questo incidente di rientrare in porto in India. Banale, perché anche un bambino di 5 anni sa che non bisogna rientrare in porto. Dopodiché, come è gestito l'Italia in questi 2 anni? Anche con la Bonino, perché la Bonino la sentiamo sbracciarsi adesso perché ovviamente ha bisogno di essere riconfermata, ma in questi ultimi 2 anni non è che l'abbiamo sentita molto. Che cosa doveva fare l'Italia? Secondo me doveva fare banalmente, ma Fratelli d'Italia lo ha detto dall'inizio, dall'inizio. Io ho fatto personalmente due interrogazioni, una a Monti e una a Letta, mi hanno risposto la stessa cosa, cioè non alziamo i toni. L'Italia avrebbe dovuto fare banalmente due anni fa e poi un anno fa quello che in parte sta cercando di fare oggi, cioè internazionalizzare la crisi, presentarsi di fronte agli organismi sovranazionali dei quali noi facciamo parte e chiedere conto di quella che era una aggressione in termini di violazione del diritto internazionale. Ma sentito, anche l'ONU pare che abbia detto, insomma, è un problema che non riguarda l'ONU, quindi, ma questo va anche l'Europa, l'ha detto l'Unione Europea, ha detto che appunto, sono quindi, terzi tra Italia quindi. E beh, e quindi sa perché? Perché non contiamo niente e perché tanto si sa che l'Italia non alzerà le penne. Allora sai che cosa avrei fatto io? Perfetto, sarei andata alla NATO e avrei detto alla NATO: oggi che giorno è? Mercoledì? Perfetto, il prossimo mercoledì ritiro il primo contingente di pace, ogni settimana che passo ritiro un altro contingente di pace fino a quando questi due militari italiani non rientrano in Italia, perché se i militari italiani sono inutili e non servono a niente quando sono aggrediti, allora sono inutili e non servono a niente neanche quando devono tenere in piedi le operazioni di peacekeeping, quella roba, sì. In tutto il mondo, cioè, avrebbe fatto questo ricatto molto molto molto duro, insomma, avrei chiesto conto, insomma, di una credibilità. Noi dimentichiamo, l'Italia è fondamentale davvero nella gestione delle missioni di pace. Questo nel certo, mondo. Questo certo. Si può far trattare così, perché quella è una banale violazione del diritto internazionale. Cioè, qui non si tratta di giudicare se i Marò sono colpevoli o innocenti, si tratta di dire che secondo le chiarissime norme del diritto internazionale quei due militari vanno processati in Italia. Ma lei se lo ricorda quando fu del Cermis? Quando due militari italiani per divertimento ci hanno ammazzato qualche decina di italiani. Noi non abbiamo neanche conosciuto mai il nome di quei militari. Poi sì, credo, allora. Ma comunque insomma se ne stanno in America. Accade, l'ultima domanda che voglio farle è su Sanremo. Mi ricordo che tra l'altro un anno fa, proprio in questi tempi, o forse era due anni fa, non ricordo, cioè quando ci fu Carla Bruni, no? Lei si lamentò molto. Su Sanremo picchia il tasto sempre sulla questione di Sanremo, anche questa volta se l'è presa con i compensi. No? Ma ieri l'ha visti questi due precari, che la protesta di Grillo. Grillo mi pare insomma sia semplicemente andato a cercare un palco abbastanza facile, ma insomma nelle sue corde. Cioè se l'è presa con i compensi anche lei, come Brunetta, diciamo, anche Brunetta. Io penso che un po' stonino, francamente. Penso che rispetto all'Italia nella quale ci troviamo, al di là del fatto delle pubblicità, no, perché poi ogni volta rispondono però produce molta pubblicità, penso che comunque è un po' stoni, come sempre stonano i privilegi quando sono eccessivi rispetto a una società nella quale appunto la gente si vuole suicidare perché proprio non sa dove mettere le mani, ecco, banalmente. E penso che ci sia sempre un utilizzo un po' così che rischia di essere un po' ideologico, poco da servizio pubblico, che bisogna diciamo così frenare, è il motivo per cui lo hanno contestato fortemente la presenza della moglie di Sarkozy, Carla Bruni, che è una che ha dichiarato di vergognarsi di essere italiana e non si è capito perché gli italiani le dovrebbero pagare un gettone per venire al festival. Vabbè, almeno quella è vicenda passata. Intanto la ringrazio, in bocca al lupo ovviamente all'onorevole Giorgia Meloni, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Noi dopo la pubblicità ripartiamo da che cosa? Beh, come si diceva ieri, ci sono dei decreti che rischiano di non essere convertiti. Uno di questi è il finanziamento pubblico ai partiti, ma oggi il Sole 24 Ore dice che ci sarebbe questo accordo, l'accordo Forza Italia PD per accelerare. Addirittura potrebbe oggi essere approvato questo finanziamento, a meno che il Movimento 5 Stelle, per esempio, non faccia opposizione, ostruzionismo, che è una delle ipotesi possibili. Lo chiederemo al senatore Vito Crimi, che sarà ospite tra poco con noi, insieme al deputato di SEL Nazareno Pilozzi. Ripartiamo tra un attimo. 24 mattino. Allora, le 8:37 minuti. Oggi il Sole 24 Ore racconta che sul finanziamento pubblico ai partiti, decreto che va convertito entro il 26 febbraio, dunque settimana prossima, altrimenti decade. E sapete che c'è un ingorgo istituzionale mica male in questi giorni tra Camera e Senato. Ebbene, ci sarebbe un accordo tra Forza Italia e PD per chiudere il finanziamento, quello che dal 2017, il decreto voluto dal governo Letta, che dal 2017 deve cambiare la forma di finanziamento pubblico ai partiti. Ce la faranno i nostri baldi eroi, si potrebbe dire. Ne vogliamo discutere con un deputato e un senatore, il deputato di SEL che fa parte della Commissione Affari Costituzionali alla Camera, Nazareno Pilozzi, che saluto, onorevole, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno. Così come a voi. Saluto il senatore invece del Movimento 5 Stelle e anche lui fa parte della Commissione Affari Costituzionali al Senato, Vito Crimi, buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno. scusate la voce, ma è l'influenza. Vabbè, l'influenza. Tra l'altro bisognerà capire, perché oggi uno dei gialli è proprio, che scrive il Sole 24 Ore, che farà il Movimento 5 Stelle, certo, alla Camera, cioè, ma che succederà? Perché l'unico che potrebbe far saltare questo accordo, visto che non si può porre la fiducia, questo è un aspetto importante da dire, non si può in questo momento in cui il governo è in carica per gli affari correnti porre la questione di fiducia, e dunque un eventuale ostruzionismo potrebbe rischiare di far saltare, come abbiamo visto, no, l'ostruzionismo nei precedenti provvedimenti che ha creato questo gran bailam. Vito Crimi, intanto, ci può anticipare qualcosa al Movimento 5 Stelle che farà? Guardi, non posso anticipare molto, sarà comunque una decisione che prenderà il nostro gruppo alla Camera e che prenderà solo alla fine sulle modalità, in quanto il decreto che sta per essere convertito è un decreto truffa, noi lo abbiamo sempre denunciato. Sicuramente riduce la possibilità per i partiti di ricevere dei fondi, perché dal 2017 i fondi che arrivano ai partiti sono legati esclusivamente al 2 per 1000 e quindi ha una scelta dei cittadini, che ci auguriamo sia per non darli, ovviamente, e quindi questo, diciamo, un decreto truffa, però un'eventuale non conversione comporterebbe che quest'anno a luglio prendano i 91 milioni così de plano, senza appunto, quindi, questa cosa forse è quello che sperano, perché inizialmente era un disegno di legge, non so se ricordate, approvato, certo, già alla Camera, quindi era già al Senato, e nel giro di probabilmente un mesetto poteva essere approvato ed era finita. Però pensiamo, per paradosso, no, è stato fatto un decreto. Però senatore, pensiamo a questo tipo di paradosso. Mettiamo il caso che cioè, il Movimento 5 Stelle faccia ostruzionismo, non si riesca ad approvare. Sa cosa succede? Qualcuno già oggi lo scrive, il Sole 24 Ore dice così: vi accuseranno di essere coloro che non hanno voluto far passare il finanziamento pubblico ai partiti. Questa è una cosa bellissima, questa assurdità del cercare di dare la colpa a noi. Noi che il finanziamento pubblico non lo abbiamo preso, siamo per l'abolizione totale fin dall'inizio, come per, diciamo, soddisfare una risposta all'esito referendario del 93, e adesso magari veniamo accusati di essere quelli che tengono in vita questo finanziamento. Questo è il paradosso. Mi sembra veramente assurdo, è un paradosso. Comunque questo decreto, io vorrei solo sottolineare questa cosa, che gli italiani sappiano che questo decreto è un decreto truffa. Le dico una cosa tanto per farle capire: c'è uno stanziamento di 9 milioni di euro, cerco di precisare la cifra, per il 2014 per le comunicazioni individuali, cioè per spedire le lettere, sì, a tutti gli italiani, per dire che possono versare il 2 per 1000 ai partiti. 9 milioni. Quest'anno lo stanziamento del 2 per 1000 è di 7 milioni e mezzo, perché gradualmente va aumentando. Sì. Spenderanno 9 milioni per spedire delle lettere ai cittadini, per chiedergli di versargli 7 milioni e mezzo. Per comunicare che potrebbe cambiare la situazione, quindi bisogna, si può fare questa cosa. Spero. Spero. Vabbè, insomma, è vero che non tutti abbiamo la mail, non tutti si possono informare, ma insomma, mettere a bilancio 9 milioni di euro per informare i cittadini per l'eventuale cambiamento del regime di finanziamento pubblico ai partiti mi sembra eccessivo. Onorevole Pilozzi, anche SEL è contraria, ma per altri motivi, parte da un principio ben diverso da quello del Movimento 5 Stelle. Credo che abbiate presentato in commissione e poi li presenterete in aula quanti emendamenti, onorevole Pilozzi? Ma non credo che poi in aula ne presenteremo molti, ma lei guardi, anche sulla questione del Movimento 5 Stelle, non abbia timore, diciamo, per ogni legge liberticida di questo paese il Movimento 5 Stelle, come ha fatto sulla legge elettorale, troverà il modo di uscire dall'aula, diciamo così. Sì. E di agevolare l'approvazione da parte della maggioranza di queste perché? Leggi. Perché lei è sicuro che non faranno ostruzionismo in aula? Ma no, perché saranno molto più, diciamo, interessati a fare operazioni di visibilità mediatica nell'aula del Parlamento, più che a fare ostruzionismo per far saltare questo decreto, perché alla fine questo, diciamo, populismo e questa demagogia che va tanto di moda in questo momento non può che agevolare il Movimento 5 Stelle, e quindi, come già è successo per la legge elettorale, vedrà che magari alzeranno qualche cartello, lanceranno qualche grave accusa alla maggioranza, ma alla fine troveranno il modo di far approvare il decreto, cioè far vedere noi siamo diversi mentre loro approvano queste cose, per poi diciamo passare all'incasso come voti. Lei la mettiamo così? Ma io non lo so poi se passeranno all'incasso come voti, questo, come strategia, certo. Sì, poi questo diciamo bisogna anche sapersi presentare alle elezioni, mi sembra che in Sardegna non sono riusciti neanche a farlo. Io credo che in realtà questo decreto è un decreto truffa, a ragione Crimiba, perché questo è un decreto che privatizza la politica in questo paese. Questo è un paese che ha privatizzato tutto, ha privatizzato l'acqua, ha privatizzato ogni bene comune. Era rimasta una cosa, diciamo, pubblica in questo paese, che era la politica e la possibilità di tutti i cittadini di accedere e di partecipare alla vita politica. Con questo decreto nel giro di 3 anni noi avremo riusciremo a privatizzare anche la politica, e riusciremo nel modo peggiore, cioè dando la possibilità a chi ha i soldi di continuare a far politica, sì, e di chi non ha i soldi, di chi non ha la possibilità, di tutti quei cittadini che non hanno le grandi risorse economiche che hanno pochi cittadini in questo paese, a noi, a tutti quei cittadini, non daremo più la possibilità, insomma, di partecipare alla vita pubblica. Mi sembra che entrambi dite è una legge truffa, solo che per motivi ben diversi. Vito Crimi dice il Movimento 5 Stelle, visto che mantiene il 2 per 1000, poi ci sono anche questi 9 milioni stanziati per comunicare ai cittadini, lei dice invece lei Pilozzi dice perché ci vorrebbe un finanziamento pubblico e non si deve privatizzare. Ma me lo conferma Pilozzi questi 9 milioni stanziati per spedire lettere? Sarebbe un po'... Guardi, la questione degli stanziamenti di questa legge è molto semplice. Gli stanziamenti di questa legge sono sempre dentro i soldi del vecchio finanziamento ai partiti, quindi anche quando si dice il 2 per 1000 va comunque chiarito un aspetto, sì, che il 2 per 1000 comunque non potrà mai superare i vecchi finanziamenti dati ai partiti, così come dimezzati nell'ultima legge. Sì, ma non credo che ce ne sia il rischio comunque, Pilozzi, non no, vorrei essere per dire, pessimista. Ma io su questo, guardi, io su questo non ho dubbio che sia così, perché purtroppo in questo paese, grazie anche a quella che è l'informazione, ho visto che ieri Beppe Grillo ha attaccato violentemente la RAI e l'informazione pubblica del nostro paese, che sicuramente ci mette del suo, magari dimenticando che il presidente della vigilanza RAI da un anno è un esponente importante del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, che però dice vuole cambiare. Che cosa si fa in Parlamento? Perché io credo che sia che adesso debba anche finire questa storia. No, ma è chiaro. Di criticare, vabbè, allora, Vito Crimi risponda alla questione di dire, insomma, faranno la solita cacciara, questo l'ho detto io, non Pilozzi, lo traduco, faranno la solita cacciara per visibilità, ma poi insomma no. Non si tratta di visibilità, io vorrei chiarire anche a voi, non si tratta di avere la nostra visibilità, si tratta di dare visibilità a qualcosa che succede alle Camere, che per noi è una legge truffa. Io vorrei precisare questa cosa però, privatizzazione della politica. Attenzione, qui stiamo parlando dei partiti che sono già degli enti privati, sono già delle società private, non dobbiamo nascondercelo, sono già così. E non invece è ben altra cosa fare politica, quelli che sono i costi della democrazia, cioè gli stanziamenti per gruppi parlamentari, altro che sono ben altra cosa, la possibilità un gruppo parlamentare di poter esercitare la propria attività politica, ma i partiti di fatto sono già delle entità private, quindi non dobbiamo neanche scandalizzarci. Poi è già privatizzata. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico, abbiamo perso qualche parola del suo telefonino, magari stia fermo in un punto, ma dopo il traffico riprendiamo tra un attimo. Eccoci qui. In ogni caso, senatore Crimi, l'accusa politica che ha fatto l'onorevole Pilozzi di SEL è a dire, anche riferita in questo caso a Grillo, basta cambiare questo, cioè bisogna cambiare questo modo di fare politica, basta la politica solo della protesta fine a se stessa. Questa è un'accusa che molti vi rivolgono, anche giornalisti, me compreso, senatore Crimi. Cioè... Ma noi siamo all'opposizione, il nostro ruolo di opposizione è l'unico modo che abbiamo per poter esercitare delle pressioni sulla maggioranza, che altrimenti farebbe il buono e il cattivo tempo secondo le proprie esigenze personali, private, tornando al discorso della privatizzazione, è l'unico modo, è quello di portare il dibattito in sede extraparlamentare, chi ha fatto opposizione sa che funziona così. Extraparlamentare vuol dire cercare di trasmettere all'esterno quello che succede all'interno delle aule per creare quella pressione esterna nei confronti dei partiti di maggioranza perché non facciano delle porcate. Questa è la nostra esterna? Attività, cioè, e continueremo a fare. Ma perché esterna? All'interno delle aule non abbiamo i numeri per poter contrastare questa grande inciucio alleanza tra PDL e PD che è in corso, e quindi non avendo i numeri noi dobbiamo a tutti, cioè per forza, portare il dibattito all'esterno. Veda per esempio il decreto Banca Italia. Chi avrebbe saputo del decreto Banca Italia se non avessimo fatto tutto quel clamore che avessimo con questo principio, con questo principio però nessuna opposizione ha mai i numeri per poter, si chiama opposizione proprio per quella, quindi secondo le opposizioni dovrebbero lottare fuori dal Parlamento, no? Però quello è il Noi vogliamo portare a conoscenza dell'esterno di quello che succede dentro il Parlamento, questo è quello che facciamo. Ripeto, Banca Italia è l'esempio classico, se non avessimo fatto quelle azioni eclatanti sarebbe passato avrebbe parlato un po' di Banca Italia, sarebbe passato come tanti, eppure poi avete parlato di Banca Italia e tutti ne hanno parlato e i cittadini comuni ne hanno parlato, e questa è la novità, non solo gli esperti di settore. Nel merito, onorevole Pilozzi, cosa c'è che non va bene nel sistema per cui si dà col 2 per 1000, quindi con i cittadini liberamente di poter scegliere do i miei soldi oppure non do i miei soldi ai partiti? Cosa c'è che non va bene di questo principio secondo lei? No, guardi, io per rispondere anche velocemente, io non voglio entrare su come altri partiti fanno l'opposizione, non era questo il mio messaggio di prima. Io dico solamente che su alcune leggi liberticide e che stanno cambiando radicalmente la natura della nostra Costituzione, il Movimento 5 Stelle tipo è assolutamente... Qual è una la più liberticida di legge che viene? Sicuramente la nuova legge elettorale, il Forza Italicum. Okay. Chiama lei il Forza Italicum? Ha fatto apposta? Esatto. O lo chiama Forza Italicum? Perché... No, lo chiamo Forza Italicum perché Renzi ci ha messo l'Italicum e Berlusconi ci ha messo il Forza. Non è male come slogan, il Forza Italicum. Questa è nuova, è la prima volta che lo sento. Forza Italicum. In Commissione Affari Costituzionali abbiamo lavorato molto su questa legge, siamo riusciti anche a trovare, a vedere nitidamente la mano di Berlusconi, ma anche la mano del 5 Stelle in quella legge, che non a caso sono usciti dall'aula. Io dico semplicemente questo, che si possono attaccare i partiti perché è giusto che si debbono attaccare i partiti. Il punto è che i partiti politici sono nella nostra Costituzione. Vorrei ricordare al senatore Crimi che la Costituzione si difende in tutti i suoi 139 articoli e non solo nell'articolo 138. Quindi noi potevamo fare una legge per democraticizzare, per mettere trasparenza, per migliorare i partiti italiani. In realtà abbiamo fatto una legge che, ripeto, mette la politica in mano ai più forti, e noi sappiamo chi sono in questo paese i più forti, e i più ricchi. E questo è il punto. E nel merito io dico che questa legge, per esempio il 2 per 1000, toglie un'altra prerogativa fondamentale dei cittadini elettori. Perché? Ovvero la segretezza del voto, perché ogni cittadino che metterà deve indicare firma, deve indicare a chi la dà, deve indicare a chi dà i soldi. Sì, ho capito. E secondo lei un imprenditore che magari vorrà far politica e ha 40 lavoratori o 50 lavoratori, magari anche donne, non vuol far sapere a chi lo dà, che sono tutte precarie, a chi farà mettere? Ma allora vede che è meglio toglierlo definitivamente, cioè che così togliamo, non so, adesso non voglio fare il lavoro di Vito Crimi, però a parte che sulla legge elettorale insomma il Movimento 5 Stelle ma è contrario, scusate, però insomma voi siete una radio importante di questo paese che spesso ci ricorda l'importanza dell'Europa e delle cose che funzionano in Europa. Mi spiegate perché in Spagna, perché in Francia, perché in Germania e addirittura nel Regno Unito esistono forme di finanziamento pubblico? Il problema, onorevole Pilozzi, che forse in Germania, in Spagna e in Francia non hanno, non è che voglio fare il populista, ma le inchieste della vista, non hanno rubato in tutti questi anni tanto quanto hanno rubato in Italia. Quindi noi dobbiamo fare una legge che impedisce di rubare, mettendo trasparenza e mettendo i controlli, e dobbiamo mettere in galera chi ruba. Vede, se siccome in Italia c'è la possibilità che negli ospedali si rubi, noi chiudiamo gli ospedali, siccome c'è la possibilità che nelle scuole facciano questo... noi chiudiamo le scuole. Ma è chiaro, questo è il ragionamento. Capisco anche questo tipo di ragionamento, non so se lo capisce il senatore Crimi, a dire insomma non è che la soluzione, siccome ci sono stati casi di latrocinio, è allora cancelliamo tutto, becchiamo i ladri e mettiamoli in galera, questa è la Però soluzione. Posso, ascolti, mi sembra che la Costituzione prevede anche che il popolo è sovrano, e un referendum popolare ha detto che i finanziamenti pubblici ai partiti vanno aboliti. Dette queste parole, dette da un partito come SEL, che è lì al Parlamento solo grazie al Partito Democratico, uno dei partiti più ricchi probabilmente che ci sono nella Costituzione, sono lì solo perché sono arrivati a traino di quel partito, mi sembra veramente surreale. È surreale, va bene. Mi fate sentire Luca dalla provincia di Monza e Brianza, ci ha chiamato, se sono brevi gli ascoltatori ci stanno. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno. Già parte, dica. Io volevo chiedere al senatore Crimi come ha fatto a fare politica senza soldi. Molto secca, come ha fatto a far politica senza soldi? Non lo so, è Vito Crimi, come ha fatto a far politica senza soldi? Abbiamo fatto politica senza soldi, è tutto dimostrato. Siamo andati in giro per le piazze, abbiamo utilizzato molto la rete, il massimo che abbiamo speso è un palco, solo che quando prendiamo un palco, tanto per farvi capire, per un comizio noi spendiamo 1.500 euro, chissà perché quando invece un partito classico deve fare un palco spende 50.000 euro. Probabilmente anche lì ci sono giri. Vabbè, ma comunque strani. Si sa che il Movimento 5 Stelle rifiuta il finanziamento pubblico ai partiti. No, mi devo fermare, non c'è spazio. Franco da Torino, la recuperiamo la prossima volta, glielo prometto, se no sforo sempre, rischiamo di tagliare. Onorevole Pilozzi, mi lasci concludere con una battuta, ma quando la chiama Vendola lei risponde, si fida che è Vendola oppure no? Perché c'è il dramma di Vendola oggi su Repubblica, dice ormai non posso più avere relazioni, chiunque chiamo dice aspetta un attimo, ti richiamo io, è un po' così. Esatto, ma quando chiama Vendola comunque sono sempre telefonate molto interessanti. Io ho capito, se è Vendola, perché sempre che sia Vendola. Anche questo. Devo dire che almeno per fortuna la zanzara non mi fa di questi scherzi. Vabbè, ma non è detto, stia attento. Quando chiama Vendola stia attento. Intanto io vi devo salutare e ringraziare Nazareno Pilozzi di SEL e Vito Crimi e Movimento 5 Stelle per essere stati con noi. Con Miriam Luchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Marcotulli in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. L'appuntamento è rinnovato domani. Potete seguirmi anche su Twitter, Alino Milan, su Facebook, dovunque ci siamo. E a domani alle 6.30 siamo qua, puntuali. 6.30. 24 mattino.